Circa in quel periodo ricevette la visita di alcuni vicini che le erano stati presentati da un comune amico. Questa visita fu descritta in una lettera dalla quale ho il permesso di stralciare alcuni brani che mostreranno l'impressione che l'ambiente naturale che circondava la sua casa e altri particolari facevano sugli estranei. Benché piovigginasse, risolvemmo di fare l'escursione a Haworth, alla quale pensavamo da lungo tempo. Così ci impacchettammo nella pelle di bufalo e con questa nel calessino ci mettemmo in viaggio verso le 11. La pioggia cessò, la giornata era esattamente appropriata allo scenario, gelido e selvatico, con grandi cumuli di nubi incombenti sulla brughiera e ogni tanto un raggio di sole che filtrava quasi nascostamente per posarsi con magica opaca luce su un qualche cupo villaggio appollaiato sulle alture. O dardeggiando giù per una valletta oscura accendeva un'alta ciminiera, o riluceva sulle finestre e sul tetto bagnato della fabbrica che ne occupava il fondo. Il paesaggio si faceva sempre più selvaggio a mano che ci avvicinavamo a Haworth. Durante le ultime 4 miglia salimmo la china di una vasta landa desolata sulla cui cima è situato il nero villaggio di Haworth. La via che attraversa il villaggio stesso è una delle più ripide salite che io abbia mai visto e le sue pietre sono causa di così orribili scossoni che sarei scesa a terra per camminare con W se fosse stato possibile. Ma una volta intrapresa la salita non si poteva fermare il veicolo. In cima vi era la locanda dove facemmo tappa, quasi a fianco della chiesa, e la casa del parroco, ci dissero, sorgeva proprio sopra il cimitero. Così lo attraversammo. Luogo triste, squallido, letteralmente lastricato da pietre tombali annerite dalla pioggia e tutte sul pendio, visto che la casa del reverendo Mr. Bronte è situata considerevolmente più in alto della chiesa. Ora, la casa ci stava di fronte, una piccola costruzione oblunga in pietra, senza un solo albero che la schermasse dal vento tagliente. Nel cimitero vi era un vecchio che rimuginava come uno spettro sulle tombe, con una espressione di orribile ilarità. Pensai che non aveva quasi aspetto umano, tuttavia era umano, abbastanza per indicarci il cammino, e dopo pochi minuti ci trovammo nel piccolo, nudo salotto. Quasi subito la porta si aprì e un mastino carico di anni la varcò, seguito da un vecchio signore molto somigliante a Miss Bronte, che ci strinse la mano e andò a chiamare la figlia. Vi fu un lungo intervallo durante il quale accarezzammo il vecchio cane, guardammo un ritratto di Miss Bronte firmato da Richmond, unico ornamento che sembrava stranamente fuori posto sulla parete spoglia. Esaminammo i libri nei piccoli scaffali, la maggior parte dei quali erano evidentemente omaggi degli autori da quando Miss Bronte aveva raggiunto la celebrità. Finalmente ella entrò. Ci diede un gentilissimo benvenuto e mi accompagnò al piano di sopra a togliermi cappello e cuffia e mi portò di persona acqua e asciugamano. Le scale e i pavimenti privi di tappeto, i vecchi cassettoni appoggiati su sostegni di legno erano tutti di una pulizia scrupolosa e in ordine perfetto. Quando tornammo in salotto iniziammo una piacevolissima conversazione. La porta si aprì e Mr. Bronte ci gettò un'occhiata. Constatando la presenza della figlia e pensando che tutto procedeva a dovere, si ritirò nel suo studio, che apre sull'altro lato dell'ingresso, da dove poco dopo emerse nuovamente per portare a W un quotidiano della provincia. Questa fu la sua ultima comparsa fino al momento della nostra partenza. Miss Bronte parlò calorosissimamente di Miss Martineau e di quanto giovamento ne aveva avuto. Bene. Parlammo di varie cose, del carattere della gente, della sua solitudine personale, finché uscii dalla stanza per aiutare a preparare il pranzo, suppongo, visto che stette un'eternità prima di ricomparire. Il vecchio cane era scomparso, un altro cane, grasso e dal pelo arricciato, ci onorò per un po' della sua compagnia. Poi manifestò il desiderio di uscire e così fummo lasciati a noi stessi. Miss Bronte ricomparve, seguita dalla domestica e dal pranzo che mise tutti più a nostro agio, e avemmo una piacevolissima conversazione, durante la quale il tempo passò più veloce di quanto pensassimo, poiché W scoprì che erano le 15:30 e noi avevamo da affrontare 14 o 15 miglia sulla via del ritorno. Così ci affrettammo a partire, avendo ottenuto da lei la promessa di una visita per la prossima primavera. Le Il vecchio signore sbucò ancora una volta dal suo studio per congedarci e noi tornammo alla locanda e da lì prendemmo la via del ritorno. Miss Bronte mi fece pensare tanto alla sua Jane Eyre, mi sembrò più minuta che mai mentre si muoveva così quietamente, senza fare il minimo rumore, proprio come un uccellino, come Rochester dice nel romanzo. Se non che gli uccelli sono gai e la gaiezza non deve essere mai entrata in quella casa fin dal momento in cui fu edificata. Eppure forse quando questo vecchio, allora in buona età, vi condusse la giovane moglie e le voci e i passi dei bimbi furono uditi risuonare attraverso le stanze, perfino quel desolato cimitero e quelle gelide folate di vento non poterono soffocare la gaiezza e la speranza. Vi è qualcosa di commovente in quella piccola creatura che, sepolta in un simile luogo, vi circola come uno spirito, specialmente se si pensa che in quella fragile struttura era chiusa una vita impetuosa che nulla è stato capace di raggelare e di estinguere. In una delle sue precedenti lettere, Miss Bronte aveva fatto riferimento a un articolo apparso nella rivista Palladium che aveva reso quello che a lei sembrava il giusto tributo al merito di Cime Tempestose, l'unico romanzo scritto da sua sorella Emily. Anche il suo lavoro personale veniva lodato con acutezza ed ella ne era felice, ma il suo caldo cuore traboccava di gratitudine per colui che aveva reso giustizia alla scrittrice morta. Cercò di scoprire il nome del critico e, saputo che questi era Mr. Sidney Dobell, egli immediatamente divenne una delle persone a lei care. Si interessò a tutto quanto gli scriveva e in breve tempo si misero in corrispondenza. A W. S. Williams, 25 ottobre. La cassetta coi libri mi è giunta ieri sera e come al solito posso solamente ammirare con gratitudine la scelta da lei fatta. I saggi di Jeffrey, la Dr. Reynolds Life, The Roman, Alton Locke erano tutti desiderati e sono stati benvenuti. Lei dice che non ne tengo abbastanza. La prego di scusarmi, ma mi vergogno della mia rapacità. Ho tenuto la storia di Macaulay e il preludio di Wordsworth e Philip Vati Artevelde. Calmo la mia coscienza dicendomi che gli ultimi due, essendo poesia, non contano. Ho già avuto i saggi di Macaulay e le lezioni di filosofia morale di Sydney Smith. Non ho visto il lavoro di Pickering sullo stesso argomento e nemmeno tutti i volumi dell'autobiografia di Leigh Hunt. In ogni caso, ora sono abbondantemente provvista per un bel po' di tempo. Mi sono piaciuti molto i saggi di Hazlitt. L'autunno, come lei dice, è stato molto bello. Io, la solitudine e le memorie abbiamo spesso approfittato del suo sole sulla brughiera. Provai un certo disappunto nel non ricevere per posta le bozze di Cime Tempestose. Una febbrile impazienza di completarne la revisione tende ad assalirmi. Il lavoro di esaminare le carte, eccetera, non può essere compiuto con serenità di spirito. Associazioni troppo tenere, rimpianti troppo amari ne conseguono. Però i libri che arrivano da Cornhill prima sono per me il miglior rimedio. Mi danno un piacere che non potrei ottenere dagli stessi identici libri presi in una libreria qualsiasi. Ho già letto la maggior parte del roman. In esso vi sono brani che possiedono una forza illuminante, quali la sola vera poesia può vantare. Immagini di genuina grandezza, versi che istantaneamente si imprimono nella memoria. Può essere vero che un nuovo pianeta è sorto nel firmamento, dove tutte le stelle sembrano in rapida estinzione? Penso che sia così, poiché questo Sidney o Dobell parla con voce propria, non presa a prestito, non imitatrice. In verità, si ode a tratti, in alcuni brani del roman, un'eco di Tennyson o di Byron, ma subito dopo si percepisce una nota nuova, in nessun'altra parte più chiara che in alcune brevi liriche che cantano un incontro di menestrelli, un rintocco funebre per la morte di un fratello. Questo non seduce solamente l'orecchio e il cervello, allarga il cuore. Il seguente stralcio rivela i suoi pensieri dopo aver letto La vita del dottor Arnold. 6 novembre. Ho appena finito di leggere La vita del dottor Arnold, ma ora che secondo la sua richiesta voglio esprimere quello che ne penso, scopro che il compito non è molto facile. Sembra che manchino i termini appropriati. Non è un personaggio da congedare con poche parole di lode, un puro panegirico sarebbe inadatto. Il dottor Arnold, a me sembra, non è stato del tutto santo. La sua grandezza era gettata in uno stampo mortale, fu un po' severo, quasi un po' duro, fu veemente, combattivo. Lavoratore instancabile, non so se avrebbe potuto capire e scusare un temperamento più tranquillo, e tuttavia, non a un uomo in 20.000 vien data la sua gigantesca facoltà di operare. Da questo punto di vista, a me sembra il più grande dei lavoratori. Perciò, su questo punto, hai il diritto di essere esigente, e concedendo che egli lo sia stato, e anche un po' affrettato, severissimo e positivo, queste furono le sue sole colpe. Se in verità si può chiamare colpa ciò che non degrada il carattere, ma concorre solamente a opprimere e a sforzare la più debole natura del prossimo. Poi vengono le sue buone qualità. Su di queste non vi è alcuna ombra di dubbio. Dove possiamo trovare giustizia, fermezza, indipendenza, impegno, sincerità, meglio che in lui? Ma questo non è tutto e ne sono lieta. Oltre all'alto intelletto e a una rettitudine senza macchia, le sue lettere e la sua vita testimoniano della capacità di sentire gli affetti dal profondo del cuore. Senza di questo lo potremmo ammirare, non lo potremmo amare, ma con questo penso che ci sia dato di amarlo molto. 100 uomini simili, 50, no, 10 o 5 uomini così retti potrebbero salvare qualsiasi paese, potrebbero essere i campioni vittoriosi di qualsiasi causa. Sono anche stata colpita dalla ininterrotta felicità della sua vita, una felicità che senza dubbio risultò dal buon uso che fece della salute e della forza che gli era stata concessa dalla provvidenza, ma che fu anche dovuta alla singolare dispensa da quei profondi e amari dolori che molte creature umane sono chiamate a sopportare. Sua moglie fu esattamente quale la desiderava e i suoi figli furono sani e promettenti. Ebbe salute eccellente, quel che intraprese fu coronato da successo, perfino la morte fu gentile con lui, perché, per quanto acuti, i dolori dell'ultima ora furono brevi. Sembra che la benedizione divina lo abbia accompagnato dalla culla alla tomba. Si rende grazie nel sapere che è stato permesso a una creatura umana vivere una simile vita. Quando fui nel Westmoreland, nello scorso agosto, trascorsi una serata a Foxhow dove Mrs. Arnold e le sue figlie ancora risiedono. Era già sceso il crepuscolo quando mi misi in carrozza e faceva quasi buio quando vi giunsi. Tuttavia potei rendermi conto che la casa era in una piacevolissima posizione. Sembrava un nido nascosto nei fiori e nelle piante rampicanti. E per quanta poca luce vi fosse, sentii che la valle e le colline all'intorno erano tanto belle quanto l'immaginazione può sognare. Se ripeto cose che ho già detto, è solamente per imprimere nella mente di chi legge la triste monotonia della vita di Charlotte in quel tempo. La buia stagione invernale ricondusse con sé le lunghe serate che la provarono severamente, tanto più in quanto, essendo debole di vista, non riusciva a svolgere al lume di candela nessuna occupazione all'infuori dello sferruzzare. Capì che per amore del padre e per se stessa le era necessario un diversivo se voleva vincere la depressione, perciò accettò l'invito di Miss Martineau che la sollecitava ad andare da lei ad Ambleside per una decina di giorni. Decise anche di venire a Manchester e di farmi visita lungo il percorso, ma disgraziatamente ero assente da casa e perciò non fui in grado di accoglierla. Gli amici di cui ero ospite nel nord della Scozia, udendomi esprimere il rammarico di non poter accettare la sua amichevole proposta e consapevoli che la triste condizione di spirito e di salute in cui versava le rendevano necessaria una diversione, le scrissero esprimendo il desiderio che venisse a trascorrere una o due settimane in casa loro, mentre vi soggiornavo anch'io. Rispose all'invito con una lettera indirizzata a me in data 13 dicembre 1850. Cara signora Gaskell, la gentilezza di Miss, unita alla sua, è tale che mi trovo in difficoltà, non sapendo esprimere adeguatamente quanto sento. Questo però so benissimo che se potessi venire e rimanere 1 o 2 settimane in una tranquilla casa di campagna del sud, in compagnia di due persone gentili, quali lei mi prospetta, ne avrei grandissimo piacere. Trovo l'offerta meravigliosamente di mio gusto. Costituisce per me la più piacevole, la più gentile, la più soave tentazione possibile. Ma le sue sollecitazioni, per quanto dilettevoli siano, non devono essere ascoltate senza il benestare della ragione. Perciò desidero per il momento di star quieta e di tirarmi indietro fin quando, dopo aver fatta la mia visita a Miss Martineau, Sarò tornata a casa e avrò tempo di considerare se è tanto giusta quanto gradevole. Per intanto, il solo pensarvi mi fa bene. La seconda edizione di Cime Tempestose fu messa in circolazione il 10 dicembre. Charlotte ne inviò una copia a Mr. Dobell, accompagnandola con la seguente lettera: a Mr. Dobell, Haworth, nei pressi di Keighley, Yorkshire, 18 dicembre 1850. Offro questo piccolo libro al mio critico del Palladium ed egli deve pensarlo accompagnato dal tributo della più sincera gratitudine, non tanto per quello che ha detto di me, quanto per la nobile giustizia resa a colei che mi è tanto cara quanto me stessa, forse più cara ancora. E una gentile parola detta in suo favore suscita un sentimento di gratitudine più profondo, più tenero che non mille panegirici accumulati sul mio capo. Come vedrà, dopo aver letto la notizia biografica, mia sorella non la può ringraziare di persona. È uscita dalla mia e dalla sua sfera e per lei ormai l'odio, biasimo, umani non significano nulla. Ma per me, per amor suo, hanno ancora peso. Mi ha sostenuto per lunghi giorni lo scoprire che, benché sia morta, il lavoro del suo genio abbia finalmente incontrato il giusto riconoscimento. Quando avrà letto l'introduzione, mi dica se le restano ancora dubbi circa l'attribuzione di Cime Tempestose, Wildfell Hall, eccetera. La sua incredulità, in un certo senso, non mi ha reso giustizia, si è basata su un carattere che sarei spiacentissima di riconoscere per mio. Ma queste idee errate nascono quando giudichiamo uno scrittore solamente in base ai suoi lavori. Per essere onesta, devo anche rifiutare il lato lusinghiero del carattere da lei disegnato. Non sono la giovane Pentesilea Medis in Millibus, ma la semplice figlia di un parroco di campagna. Una volta ancora la ringrazio e lo faccio di tutto cuore. Charlotte Bronte. Capitolo 9. Subito dopo la ristampa del romanzo della sorella, si recò da Miss Martineau. Ora posso scriverti, cara E, perché sono via da casa e sollevata, almeno temporaneamente, grazie al cambiamento d'aria e di scena, dal pesante fardello di depressione che, lo confesso, per quasi 3 mesi mi ha gettata a terra. Non dimenticherò mai lo scorso autunno. Alcuni giorni, alcune notti sono state crudeli, ma ora, dopo avertelo detto, non ne voglio parlare più. Il mio orrore della solitudine si era fatto estremo, il ricordo delle mie sorelle intollerabilmente pungente. Ora sto meglio. Sarò ospite di Miss Martineau per una settimana. La sua casa è piacevolissima, sia all'interno che fuori. Ogni cosa vi è sistemata con ammirevole ordine e con ogni comodità. I suoi ospiti godono della massima libertà. Ciò che reclama per sé permette anche a loro. Mi alzo quando mi pare, faccio colazione da sola. Lei è in piedi alle 5, fa un bagno freddo e una passeggiata sotto le stelle e per le 7 ha finito di far colazione ed è al lavoro. Io trascorro la mattina in salotto, lei nel suo studio. Alle 2 ci incontriamo. Lavoriamo, passeggiamo e conversiamo fino alle 5, l'ora del pranzo. Trascorriamo la serata insieme e lei conversa fluentemente e abbondantemente con la massima franchezza. Io mi ritiro in camera subito dopo le 10. Lei rimane su a scrivere lettere fino a mezzanotte. Sembra avere un'inesauribile forza, sia fisica che mentale, una instancabile capacità di lavoro. È una grande donna ed è buona. Naturalmente non senza peculiarità, ma finora nessuna che mi respinga. È a un tempo dura e calda di cuore, brusca e affettuosa, generosa e dispotica. Sono convinta che non si renda conto affatto del suo assolutismo. Quando gliene faccio cenno, respinge con calore l'accusa. Allora la prendo in giro. Ambleside è nelle sue mani. A qualche famiglia gentilizia non piace, ma le classi medie e basse la tengono in grande considerazione. Mi piacerebbe passare 1 o 2 giorni con te prima di tornare a casa. Così, se non c'è niente in contrario, arriverei lunedì e mi fermerei fino a giovedì. Ho veramente goduto la mia visita qui. Ho incontrato molte persone e tutte sono state meravigliosamente gentili. Anche la famiglia del dottor Arnold. Non so dire quanto goda della compagnia di Miss Martineau. Miss Bronte fece visita all'amica, dalla quale si fermò solamente 2 o 3 giorni. Poi tornò a casa, dove immediatamente si ritrovò alle prese col suo vecchio nemico, il mal di capo, complicato da nausea, tanto più pesante da sopportare perché era costretta a prendere parte attiva nelle faccende domestiche, una delle domestiche essendo a letto e l'altra, Tabby, ormai oltre gli 80. La visita ad Ambleside, tuttavia, le aveva fatto molto bene, lasciandole un corredo di piacevoli ricordi e nuovi interessi a cui pensare nella sua solitudine. Nelle sue lettere troviamo molti riferimenti alla personalità e alla gentilezza di Miss Martineau. Ella è certamente una donna meravigliosamente dotata, sia intellettualmente che fisicamente, e benché io condivida poche delle sue opinioni e la consideri fallibile in certi punti, devo tuttavia darle la mia sincerissima stima, il bel modo in cui combina l'altissima cultura con l'elegante disbrigo dei suoi doveri mi hanno colmata di ammirazione, mentre la sua affettuosa gentilezza le è valsa la mia gratitudine. Penso che le sue nobili qualità bilancino abbondantemente i suoi difetti. È mia consuetudine considerare l'individuo indipendentemente dalla sua reputazione, la pratica dalla teoria, l'indole naturale dalle opinioni acquisite. E la persona, le azioni e il carattere di Harriet Martineau mi ispirano il più sincero rispetto e affetto. Mi chiedi se Miss Martineau mi ha convertita alla pratica del mesmerismo? No, non proprio. Tuttavia ho sentito dire miracoli della sua efficacia e non posso certo negar credito a tutto quanto mi è stato riferito. Mi sono perfino prestata a un esperimento e benché il risultato non sia stato del tutto chiaro, se ne ricavò che col tempo mi sarei dimostrata un ottimo soggetto. Il problema del mesmerismo sarà discusso, a quanto credo, in un prossimo lavoro di Miss Martineau e ho motivo di prevedere con apprensione il modo in cui altri argomenti, che offrono un terreno meno saldo alla speculazione, verranno presentati. La sua ultima lettera manifesta una così sincera e perspicace ammirazione per il dottor Arnold che forse la interesserà sapere che durante la mia recente visita a Miss Martineau ho avuto modo di conoscere a fondo Fox Howe e i suoi abitanti. E di ammirare giorno dopo giorno, nella vedova e nei figli di uno dei più grandi e migliori uomini del nostro tempo, la presenza di qualità fra le più accattivanti e stimate. In quanto alla mia gentile ospite, non posso parlare in termini se non altissimi, pur senza essere in grado di condividere tutte le sue opinioni filosofiche, politiche e religiose. Trovo tuttavia in Miss Martineau un'intrinseca grandezza e un valore, e nel suo modo di agire una coerenza, una benevolenza, una perseveranza tali da costringerci alla stima e all'affetto più sinceri. Non è una persona da giudicare solamente in base a quanto scrive, ma piuttosto secondo il suo modo di agire e di vivere, che non può essere più esemplare e nobile. A me sembra la benefattrice di Ambleside, eppure non si attribuisce alcun merito per la sua attiva e infaticabile filantropia. Il governo della sua casa è ammirabilmente amministrato, tutto quanto ella fa è fatto bene, dallo scrivere una storia alla più quieta occupazione femminile. Sotto la sua direzione non sono permesse trascuratezza o negligenza, eppure non eccede nell'essere severa o esigente. Le sue domestiche e i suoi poveri l'amano tanto quanto la rispettano. Non devo cadere nell'errore di parlare troppo di lei, solo perché sono stata recentemente impressionata da quanto ho visto delle sue facoltà intellettuali e del suo valore morale. Ha dei difetti, ma a me sembrano futili se posti sul piatto della bilancia dei suoi grandi meriti. Il suo giudizio su Mr. A coincide esattamente con quello che ne dà Miss M. Anche lei dice che placidità e mitezza, piuttosto che originalità e forza, furono le sue caratteristiche apparenti. Ella lo descrive come la combinazione tra un antico saggio greco e un moderno scienziato europeo. Forse è stato malevolo da parte mia farmi l'idea che sotto la sua apparenza marmorea si nascondessero vene torpide e un cuore freddo dai battiti lenti. Ma è un materialista. Serenamente ci nega la speranza dell'immortalità e tranquillamente cancella dal futuro dell'uomo la speranza del paradiso o della vita nell'aldilà. Questo è il motivo per cui un sapore amaro accompagna i miei sentimenti a suo riguardo. Tutto quanto lei dice di Mr. Thackeray è molto netto e caratteristico. Egli suscita in me sia pena che irritazione. Perché mai deve condurre una vita così opprimente? Perché la sua lingua sarcastica nega così perversamente i sentimenti migliori del miglior lato del suo carattere? Da qualche tempo, tutte le volte che stava bene fisicamente e spiritualmente, Charlotte si era dedicata alla stesura di Villette, ma spesso non era in condizioni di scrivere e si sentiva tanto infelice quanto irritata con se stessa per questa sua incapacità. Nel mese di febbraio scrive a Mr. Smith: Lei accenna una mia venuta a Londra, ma le parole sono vaghe e fortunatamente non sono costretta né a dar loro ascolto né a rispondervi. Londra e l'estate sono lontane molti mesi. La nostra landa in questo momento è tutta bianca di neve e i piccoli petirossi vengono tutte le mattine alla finestra in attesa delle briciole. Non si possono fare progetti con 3 o 4 mesi di anticipo. Inoltre non merito di venire a Londra. Nessuno merita meno di me un cambiamento o un piacere. Anzi, segretamente penso che dovrei essere messa in prigione, nutrita pane e acqua in cella di segregazione, senza ricevere alcuna lettera da Cornhill, finché non avrò finito di scrivere il mio libro. Un simile trattamento prolungato per 12 mesi produrrebbe una di queste due alternative. O ne uscirei con in mano un manoscritto in 3 volumi, oppure in uno stato mentale atto a esonerarmi per sempre da un qualsiasi sforzo letterario o da qualsiasi aspettativa in proposito. In quel tempo, Charlotte era inoltre turbata e angustiata dalla pubblicazione delle lettere di Miss Martineau. Esse si abbatterono con peculiare forza e peso su un cuore che guardava con tenera e ardente fede alla vita futura, quale luogo di incontro per coloro che erano stati amati e perduti. 11 febbraio 1851. Caro signore, ha già letto il nuovo lavoro di Miss Martineau e Mr. Atkinson, Lettere sulla natura e sullo sviluppo dell'uomo? Se non lo ha fatto, varrebbe la pena di farlo. Dell'impressione che questo libro mi ha fatto non dirò molto. È la prima esposizione di confesso ateismo e materialismo che abbia mai letta, la prima inequivocabile dichiarazione della non esistenza di Dio e di una vita futura che abbia mai sentito. Nel giudicare queste affermazioni si vorrebbe essere capaci di accantonare completamente l'orrore istintivo che risvegliano e considerare con spirito imparziale e umore controllato. Beh, trovo difficile farlo. La cosa strana è che ci si chiede di gioire per questo nulla, privo di ogni speranza, accettare l'amara perdita di chi ci è più caro come grande conquista, spalancare la porta del cuore per accogliere questa indicibile desolazione, considerandola uno stato di piacevole libertà. Chi lo potrebbe fare anche volendo? Chi lo vorrebbe fare potendo? Sinceramente, per quanto mi riguarda, desidero e voglio conoscere la verità, ma se quella è la verità, buon per lei proteggersi con misteri e coprirsi con un velo. Se quella è la verità, l'uomo e la donna che la contemplano hanno pieno diritto di maledire il giorno in cui sono nati. Ho detto, tuttavia, che non avrei indugiato su quel che ne pensavo. Desidero piuttosto sentire quello che altri ne pensano, qualcuno i cui sentimenti non intervengano a influire sul giudizio. Legga dunque il libro con spirito assolutamente libero e dica apertamente quel che ne pensa. Intendo naturalmente solo se ne ha il tempo, non altrimenti. E tuttavia a Charlotte fu insopportabile il tono sprezzante con cui molti critici parlarono di quel lavoro. Suscitò in lei maggior indignazione di qualsiasi altra cosa durante il periodo in cui la conobbi. Per quanto le rincrescesse la pubblicazione di quel libro, non le pareva che avesse dato ad alcuno il diritto di schernire un atteggiamento che certamente non era preso per motivi di interesse materiale e che costituiva un solo errore, di cui ammette la gravità, nella condotta di una persona che si era per tutta la vita sforzata, con pensieri profondi e nobili parole, di servire il prossimo. Le sue osservazioni su Miss Martineau e sul libro mi hanno fatto un grande piacere, tanto grazie al loro tono quanto al loro spirito. Mi sono perfino presa la libertà di trascrivere per farglieli avere 1 o 2 periodi, perché so che le daranno conforto. Le piace destare simpatia ed essere apprezzata, come piace a tutti quelli che meritano di esserlo. E concordo con lei in pieno nella riprovazione che esprime a proposito del tono duro e sprezzante con cui molti critici parlano del suo lavoro. Prima che io ritorni dalle opinioni letterarie della scrittrice agli interessi domestici della donna, voglio ricopiare quel che sentiva e pensava a proposito delle pietre di Venezia. Le pietre di Venezia sembrano abilmente impostato e cesellato. Quanto grandiosa la cava dei vasti marmi che l'autore rivela. Mr. Ruskin mi sembra uno dei pochi scrittori genuini che si distinguono dai fabbricanti di libri di questa nostra epoca. La sua foga mi diverte. In certe pagine non posso trattenermi dal ridere nel pensare a come i materialisti fumeranno dalla rabbia e si agiteranno per la profonda, seria e secondo loro fanatica riverenza per l'arte. Quella pura e severa mente che lei gli attribuisce si fa sentire in ogni riga, e Egli scrive come un sacerdote consacrato all'astratto e all'ideale. Porterò con me le pietre di Venezia, tutte le fondamenta di marmo e di granito, insieme con le maestose cave da cui sono state estratte, e insieme un piccolo assortimento di massime e capricci, proprietà privata di un certo John Ruskin.